Le nuvole gravide di pioggia e le onde lunghe fermano infatti le operazioni e ogni giorno che si perde è uno in più che allontana il ritorno alla normalità. Ma il sindaco Sergio Ortelli è fiducioso sulle garanzie chieste e ottenute, pare. Noi siamo preoccupati, ma non è che non avevamo quel senso pratico tale da capire quanto era il tempo di permanenza della nave. Volevamo solamente conoscere il progetto, perché non è solamente la tempistica è importante, ma come fare questo lavoro? Per cui abbiamo sollecitato Costa. Per noi lo spacchettamento sul posto non sarebbe davvero la soluzione ottimale, l'impatto sarebbe troppo forte. E voi avete avuto rassicurazioni che verrà portato via per intero? Diciamo che la soluzione più attendibile è più verosimile. Vi hanno spiegato come potrebbe avvenire? Non c'è un progetto, quindi non si fanno ipotesi, si fanno solamente a verifiche su quale può essere il partner di Costa. Sindaco, la sua comunità però è in grande agitazione, in grande fermento, lei li ha anche incontrati. In qualche modo sono preoccupazioni che noi condividiamo e che discutiamo giornalmente. Poi nell'incontro che abbiamo avuto con il commissario, incontro che ripeto si è svolto in modo sereno, costruttivo, si è svolto anche dando al commissario dei pareri anche da parte dei nostri marinai che conoscono l'isola, che possono apportare e supportare l'azione del commissario. È una fase un po' interlocutoria, una fase in cui noi, oltre ad avere la preoccupazione, cerchiamo di ritornare alla normalità. Io penso che nei prossimi giorni, con una riduzione anche degli organismi che sono qui adibiti al soccorso, si possa in qualche maniera ritornare a riappropriarci di alcune zone del porto fruibili fino al momento della famigerata notte del 13 gennaio. Ormai, come dire, date quasi per scontato che la prossima estate la nave sarà ancora lì. Rispetto alla presenza della nave e all'importanza che per voi ha una stagione turistica, ecco, quali sono le vostre preoccupazioni? Sì, abbiamo chiesto garanzie, chiaramente, sia al commissario che alla Costa, perché cerchiamo la compatibilità tra le due questioni. La messa in sicurezza della nave, sappiamo che la stagione la passeremo con queste immagini davanti al porto e per gestirla bisogna metterla in sicurezza. Quel lato forse dell'isola non potrà essere fruibile, ma tutto il resto dovrà rientrare in normalità. Assoluta priorità è contemperare i due aspetti, la nave che sta lì e l'economia che deve riprendere e funzionare a tutto tondo a 360 gradi. Per sentirsi più tutelata però, la popolazione ha voluto costituirsi in un comitato ora guidato da Fabio Agugliari. L'associazione pone quale fine prioritario la qualificazione e il miglioramento, la difesa, la protezione e la valorizzazione del paesaggio, del territorio e delle bellezze naturali. Sì, ma rispetto alla Concordia, quali sono le vostre preoccupazioni? Le nostre preoccupazioni sono quelle che non si sa che c'è questo pericolo eventualmente di inquinamento e tutte queste cose qua, cioè non sono le preoccupazioni, penso che abbiano un po' tutti, no? Perché ritenete che costituendo un comitato vi sentite più tutelati rispetto al non farlo? Ecco, questo quello voglio capire. Che diciamo così, tra virgolette, da un'analisi di vari legali che noi abbiamo messo abbiamo interpellato, alla fine si è giunti tutti a questa conclusione. E anche per risarcire gli eventuali danni di una stagione turistica diversa dalle altre, il Comune ha deciso la futura costituzione di parte lesa nel processo sul naufragio, come spiega il sindaco. La dichiarazione dello stato di emergenza mi mette un po' a riparo dalla fase in cui si spengono i riflettori sul Giglio e rimaniamo da soli. Gli occhi del governo mi lasciano tranquillo, parzialmente tranquillo, e dall'altra parte c'è la compagnia Costa che ha un obbligo, quello di trasferire il carburante e di mettere in sicurezza la nave, dall'alto di rimuovere la nave. Noi dobbiamo avere molta fiducia in questa compagnia. Io ritengo che con queste operazioni debba ricostruirsi quell'immagine che con questo drammatico incidente è stata alterata. Voi come comune avete già annunciato che vi costituirete parte civile nel futuro processo. Perché? Perché io ritengo sia nato dovuto, e poi entrando nei contenuti, noi ci costituiamo perché siamo parte lesa e questo insomma è sotto gli occhi di tutti. Questo anche per cercare in qualche modo, con un futuro risarcimento, diciamo così, per andare a colmare anche i disagi che l'isola ha affrontato in queste settimane legate al disastro. Per arginare, per mettere in campo alcune tutele di fronte rispetto ai possibili, alle possibili crisi economiche, che io ho molta fiducia in questa compagnia, che in questa fase è assolutamente collaborativa. Ho avuto anche garanzie dal presidente Foschi, cioè in tutti i sensi in questo momento mi sento tranquillo, però è evidente che un minimo di tutela, di garanzia, il comune la deve mettere in campo. Tutto questo però è lì, all'orizzonte, dietro la grande nave, che spunta quasi da ogni angolo dell'isola, ma più vicino, a terra, tra le stradine di un'isola che in una notte aprì le sue case e le sue chiese per accogliere i naufraghi di ogni parte del mondo, ci si prepara ora a ricordare il 13 febbraio i morti di questa sciagura del mare e i dispersi che la Concordia non ha ancora restituito. Avete ascoltato l'Isola del Giglio raccontata da Raffaella Calandra, la seconda edizione di Italia in Controluce. Siete dunque sintonizzati tutti i giorni, due edizioni, 6.30 e 13.30. Questa puntata in particolare è scaricabile su podcast come tutte le altre. Per comunicare con noi Facebook, Twitter, il blog che trovate su radio24.it e la mail controluce@radio24.it. Domani 6.30, nuove storie su Radio 24.